Vademecum legale contro gli abusi in divisa. Capitolo 2.2. Ispezioni, perquisizioni e sequestro. Dell'avvocato Margherita Di Gaeta. Le ispezioni e le perquisizioni sono mezzi di ricerca della prova, cioè atti a sorpresa di norma autorizzata dall'autorità giudiziaria che può procedervi autonomamente oppure dando mandato agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria. In alcuni casi, tuttavia, quest'ultimi possono procedervi anche di propria iniziativa. Le ispezioni. Previste dagli articoli 244 e seguenti del codice di procedura penale, hanno una finalità prevalentemente descrittiva e vengono effettuate per osservare e descrivere persone, luoghi o cose con lo scopo di ricercare le tracce ed altri effetti materiali del reato. L'ispezione può essere personale quando si svolge sulla persona, oppure può avere ad oggetto luoghi o cose. Le perquisizioni. Le perquisizioni, invece, disciplinate dagli articoli 247 e seguenti del codice penale, sono dirette a ricercare cose materiali pertinenti al reato, quali ad esempio cose sulle quali o per mezzo delle quali è stato commesso il reato, o anche nelle ipotesi in cui si ricerchi una persona da arrestare. Anche le perquisizioni si distinguono in personali e locali, a seconda che la ricerca venga effettuata su una persona, ovvero in un determinato luogo. La disciplina delle due figure è pressoché la stessa, soprattutto dal punto di vista dei diritti e le garanzie. Ciò che viene ritrovato a seguito di tali attività può essere sottoposto a sequestro. In questo caso gli agenti devono redigere apposito verbale e chiederne la convalida al pubblico ministero entro 48 ore. Diritti di chi subisce un'ispezione o una perquisizione. È importante tenere presente in modo chiaro quali sono i relativi diritti e i limiti di liceità di queste attività. La polizia giudiziaria può procedere di propria iniziativa solo per la prevenzione o repressione di determinati delitti, in casi di necessità ed urgenza, per cui non è possibile attendere il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria. Ad esempio, tale attività è giustificata dal fatto che si sia colti in flagranza di reato, sia in esecuzione di un ordine di carcerazione, le autorità stiano cercando armi, sostanze stupefacenti, denaro, o valori provenienti da tali reati e per i casi di terrorismo. In tutte le altre ipotesi non è possibile procedere né entrare in luoghi privati, quali la casa o la macchina, senza apposito mandato del giudice. Quando è necessario che ci sia un provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria, prima dell'inizio della perquisizione, si può richiedere copia del mandato. Diritti a garanzia del soggetto sottoposto a ispezione o perquisizione. Ispezione e perquisizione personale. In questi casi, prima dell'inizio di tali attività, si può richiedere che le stesse si svolgano alla presenza di un avvocato o di una persona di propria fiducia prontamente reperibile. Tale persona di fiducia deve essere idonea, a titolo esemplificativo, deve trattarsi di maggiore di 14 anni, non inferma di mente, non in stato di ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope e non sottoposta a misure di sicurezza o di prevenzione. In ogni caso, tali operazioni devono essere eseguite sempre nel rispetto della dignità e del pudore della persona. Inoltre, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta, deve procedervi persona dello stesso genere di quella che vi è sottoposta. L'attività può essere svolta anche con l'ausilio di un medico, in questi casi può essere anche persone di genere diverso. Ispezione e perquisizione aventi ad oggetto luoghi o cose. In questi casi il relativo decreto autorizzativo del giudice deve essere consegnato, prima dell'inizio delle operazioni, all'imputato o alla persona titolare della disponibilità dei luoghi, sempre che siano presenti. Sussistono inoltre dei limiti di tempo temporale per le perquisizioni nel domicilio. Non può essere iniziata prima delle ore 7 e dopo le ore 20, salvi i casi urgenti in cui l'autorità giudiziaria dispone per iscritto che la perquisizione venga eseguita fuori dai suddetti limiti temporali. Si segnala infine che qualora l'ispezione o la perquisizione abbiano ad oggetto una cosa determinata, sussiste il principio della richiesta di consegna, per cui le autorità procedenti possono inviare il soggetto a consegnarla. In questo caso si può evitare la perquisizione, a meno che le autorità procedenti non la ritengano necessaria per completezza di indagini. Verbale di perquisizione. Al termine delle operazioni si ha il diritto di richiedere una copia del verbale, anche se non viene sequestrato nulla. Nel verbale devono essere indicate tutte le operazioni svolte, gli agenti o gli ufficiali che hanno eseguito l'attività e, nell'ipotesi in cui abbiano proceduto in assenza dell'autorizzazione del giudice, i motivi per cui hanno ritenuto di procedere senza attendere l'intervento dell'autorità giudiziaria. Prima di firmare il verbale, occorre assicurarsi che ciò che è scritto corrisponda a ciò che effettivamente è accaduto. In caso contrario, non va firmato. Attività con funzione preventiva di sicurezza. Occorre distinguere le ipotesi in cui la polizia giudiziaria eserciti funzione repressiva, diretta alla ricerca degli autori e delle fonti di prova, delle ipotesi in cui le attività abbiano funzione preventiva di sicurezza. Il tipo di attività che viene eseguita è lo stesso in sostanza, diversa è la finalità. Ad esempio, uno dei casi più emblematici di perquisizione preventiva è quella prevista dall'articolo 103 DPR 9, ottobre 1990, numero 309, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, la quale si differenzia da quella prevista dal codice di procedura penale perché non presuppone necessariamente una preesistente notizia di reato, ma può rientrare anche in un'attività di carattere preventivo collocata in ambito più ampio di quella di polizia giudiziaria. Ne consegue che la persona nei cui confronti è eseguita non acquisisce l'automatica attribuzione della qualità di indagato di un reato. Si tratta di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. In questi casi gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere al controllo e all'ispezione della macchina, delle borse a bordo e degli effetti personali nell'immediato, senza quindi dover attendere l'autorizzazione del PM. Per procedere alle perquisizioni, sempre di carattere preventivo, ma fuori dei casi dove la polizia agisce di propria iniziativa, è invece prevista l'autorizzazione del magistrato competente, anche non scritta, ma telefonica, che può essere omessa solo quando ricorrono motivi di particolare necessità e urgenza che non lo consentano. In ogni caso, qualora vengono effettuate ispezioni e perquisizioni a seguito di tali operazioni, gli agenti che vi hanno preceduto devono darne comunicazione senza ritardo e comunque entro 48 ore al Procuratore della Repubblica per l'eventuale convalida entro le successive 48 ore. Ad ogni modo, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto. Sequestri. Come accennato, ciò che viene trovato a seguito di ispezioni e perquisizioni può essere sottoposto a sequestro. Per non fare confusione, occorre tenere presente che il giudice di procedura penale prevede tre distinte forme di sequestro. Probatorio, articolo 253, che rappresenta uno dei mezzi di ricerca della prova. Preventivo, articolo 321, e conservativo, articolo 316, che rientrano tra le misure cautelari. Questi tre tipi di sequestro hanno la comune caratteristica di creare, attraverso lo spossessamento coattivo, un vincolo di indisponibilità su una cosa mobile o immobile. Diverse sono invece le finalità di ciascuno di questi strumenti. Il sequestro probatorio consiste nel conservare un bene da utilizzare come prova in un procedimento, al fine quindi di mantenere immutate le caratteristiche. Questo è il tipo di sequestro che viene spesso effettuato dalla polizia, che a seguito di ispezioni o perquisizioni ritrova il corpo del reato, oppure cose pertinenti al reato, ad esempio droga, armi o denaro proveniente dal reato. Sequestro preventivo mira ad evitare che si possano aggravare o protrarre le conseguenze del reato o che si possa agevolare la commissione di altri reati. Sequestro conservativo ha lo scopo di garantire l'adempimento di eventuali pagamenti che saranno dovuti a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla commissione del reato. Sequestro amministrativo. Figura analoga è prevista anche nell'ipotesi in cui sia commesso un illecito amministrativo. Si parla in tal caso di sequestro amministrativo. Si tratta di un procedimento sanzionatorio di carattere cautelare che ha quindi una duplice finalità. Da un lato vuole privare il trasgressore del godimento e della disponibilità dei beni costituenti strumento o prodotto dell'infrazione, dall'altro vuole impedire la commissione di ulteriore trasgressione ed al contempo agevolare l'accertamento dell'illecito amministrativo.